Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Recita così un detto popolare quando il solstizio invernale, che in effetti sarà fra qualche giorno, cadeva proprio il 13 dicembre. 13 dicembre che passerete assieme, almeno per un'ora, a Giulio Caperdoni fra le 19 e le 20 come tutti i giorni della settimana con Eclettica. Vi ricordo l'indirizzo di mail nel caso abbiate qualcosa da dirmi direttamente, di positivo o di negativo. Complimenti sempre benvenuti e critiche altrettanto benvenute. Giulio@radiorockfm.com. Ero fiera di quella avventura inconscia e replicai che era geloso. Mi alzai e presi nota del sogno in ogni minimo dettaglio. Non fu difficile, perché immagini e parole erano ancora straordinariamente vivide nella mia mente. Non avevo idea di cosa potesse significare tutto ciò, ma devo dire che non mi importava più di tanto. Avere dato vita al pesce Yasmuda e a un figlio di nome Pepsi mi faceva sentire originale e stravagante. A volte i sogni assomigliano alle pulci, ti lasciano addosso la sensazione di essere coperto di pizzichi. E non serve sapere che non c'è nulla di reale, che è soltanto il tuo cervello che sta facendo un po' di pulizia. Malgrado tutto, le scene che hai vissuto come pulci ti mettono un gran prurito. Avrei voluto vedere in che posto stava per atterrare quell'aereo e avrei voluto sapere qualcosa di più di Pepsi. Pepsi James? Danny disse che doveva essere una questione di ormoni, ma io non ero affatto convinta. Secondo me si trattava di qualcosa di più interessante di una semplice reazione chimica corporea e avrei voluto scoprire di cosa si trattava. Qualche sera più tardi alcune di quelle domande trovarono risposta. Avevo bevuto due bicchieri di vino a tavola, che di solito mi trasmettono una piacevole sensazione di caldo benessere. Quella sera invece mi avevano fatto calare una cappa di piombo sulla testa, costringendomi a rimanere a letto con la testa che mi girava. «Dici che nevicherà, mamma?» «Sì, Pepsi, ci sarà la neve e poi tutti gli animali, quegli animali che ti piacciono tanto, e anche la neve. Ci stanno aspettando tutti». Questo era ancora Ossi di Luna, di Jonathan Carroll. Certainty to abuse of everything. To 55 myself. I hear that Fearless Frank Fargo got one of these up to near 70 out past Birdie Junction. Well, you think it's possible to get it up to 90? Ha! 90? Carnation, son, who'd ever need to be in such a hurry? Oh, it's just a little bit, he and I, huh? That's all. Theoretically speaking, could it be done? Well, I suppose if you had a straight stretch of track with a level grade and you weren't hauling no cars behind you, and if you could get the fire hot enough, and I'm talking about hotter than the blazes of hell and damnation itself, then yes, it might be possible to get her up that fast. Muovi le tue mani su di me. Il silenzio sembra indispensabile per controllare le parole e dimostrare di sentirsi debole. Tu da me non hai che l'assenza, quello che ti resta è la distanza. Muoviti rapidamente, legami, poi controlla l'instabilità di ogni nostro punto di contatto e spiegami cosa vuoi da me, come devo cambiare per non farti star male. Tu da me non hai che l'assenza, quello che ti resta è la distanza. Tu da me non avrai che l'assenza, quello che ti resta è la distanza. La distanza. Muovi le tue mani su di me. Il silenzio sembra indispensabile. E puoi finire le parole dentro ai gesti stanchi. E poi tornare ad imparare a rimanere soli. Siamo lontani. Lontani. che ti resta è la distanza. Parole, la distanza. Come finire le parole, la distanza. Come finire le parole, la distanza. Come finire le parole. È stata un'apertura tutta italiana, toscana per la precisione, una accoppiata che forse nelle settimane scorse è già avvenuta con i due brani in sequenza. Infatti prima dalla Val di Chiana i Kiddy Car con Human Logic e poi da Firenze Paolo Benvenu, che però, come ben sanno gran parte degli ascoltatori, è di origine bresciana. Paolo Benvenu con La Distanza, un estratto dal suo ultimo EP del 2007 in attesa dell'album del 2008. Un album che invece ci stiamo ascoltando da parecchio tempo, ma non con la traccia in questione, è All Our Symbols, l'album dei New Yorkesi Yes Sayer, che quest'oggi passano per la prima volta in eclettica con Sunrise. Rondua ritornò a fare capolino nelle mie notti. Io e Pepsi attraversammo pianure interminabili sul dorso dei nostri animali, mentre piramidi color salmone si stagliavano in lontananza sulla nera distesa vulcanica che ci circondava. Felina il lupo ci raccontò la storia dei suoi antenati, rossi pesci venuti dal mare che si liberarono delle scaglie una volta giunti sulla terraferma. Scoprimmo che tutti gli animali di Rondua erano il risultato di una metamorfosi avvenuta al loro arrivo sull'isola. Pepsi chiese prontamente se dovesse trasformarsi anche lui. Mr. Tracy, con il suo cappello di velluto incollato al testone ballonzolante, disse che l'avevamo già fatto. Il cammello Marzio si prestava spesso a farci da guida turistica. Una mattina ci indicò rari pterodattili azzurri che volavano all'orizzonte e un giorno ci informò che il sole era sul punto di scindersi a metà, segnando così la fine di un altro mese su Rondua. Quei primi segni furono spesso lunghe visioni panoramiche di quel nostro nuovo paese. Anche se viaggiando chiacchieravamo a lungo, mi capitava spesso di perdere il filo del discorso, perché ero più interessata al paesaggio. Mi resi conto più tardi che era perché conoscevo già gran parte delle storie che gli animali ci raccontavano. Come capita con quelle barzellette che sentiamo una volta e poi dimentichiamo fino a che qualcuno non ce la ripropone, avrei potuto interrompere i nostri compagni chissà quante volte e concludere io quelle storie. In che modo le montagne avevano imparato a correre, perché soltanto i conigli potevano usare le matite, cos'era accaduto quando gli uccelli avevano deciso di diventare tutti dello stesso colore. Malgrado ciò, tuttavia, non avevo ancora la minima idea del perché ci trovassimo a Rondua. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. My heart. goes clear across the bridge over the ravine, you know, over near that Hilldale housing development. Right, Doc, but according to this map, there is no bridge. Well, Doc, we can scratch that idea. I mean, we can't wait around a year and a half for this thing to get finished. Marty, it's perfect. You're just not thinking fourth dimensionally. Right, I have a real problem with that. Don't you see? The bridge will exist in 1985. It's safe and still in use. Therefore, as long as we get the DeLorean up to 88 miles an hour before we hit the edge of the ravine, we'll instantaneously arrive at a point in time where the bridge is completed. We'll have track under us and coast safely across the ravine. What about the locomotive? It'll be a spectacular wreck. Too bad no one will be around to see it. In space, Rocky went up in smoke for the crowd. With lunar ideas, he got lost. With pinball eyes and lots to see. I'm coming up on you. There's not a thing that you can do. I'm coming up on you. Not a thing that you can't.